favole, piangere e ridere, è tempo passato e dimmi perché, non sono il vento che cercava pure dire, senza paure, dimmi perché. Devo crescere, essere